Achtung, Liebfrau Milch im Porsche. Ein paar Vorsprung durch Technik. Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schweinhund, Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann. Buonasera e bentornati a questa nuova puntata di Mighty FM, che vi parlo come sempre Claudia Mighty Mau dagli studi di Radio Kairos presso il TPO di Bologna, e siamo oggi, ci mettiamo avanti, guardiamo verso l'orizzonte alle luci del giorno che svaniscono e al tramonto inizierà un evento molto speciale. Sarà sabato 30 giugno presso il Circolo Magnolia di Milano per la rassegna, insomma, di Magnolia Estate. Per la sua terza edizione ci sarà l'Astro Festival. Finora sono 6 nomi comunicati, non ho capito bene se è il cartellone definitivo o se verranno annunciati altri nomi, ma noi questi abbiamo ed iniziamo con quello che ho definito un veterano della musica ambient. Si tratta di Gigi Masin e ascoltiamo Call Me dal suo primo album seminale, oseremmo dire, del 1986, Wind. Masin, classe 1955, compositore, musicista italiano, musica ambient, musica classica, musica minimalista, in attività appunto dal 1986, quando pubblicò questo album Wind. È una cosa curiosa che ha fatto pochissimi concerti dopo l'uscita di questo disco, molti in forma privata, e la maggior parte delle copie di questo disco vennero distrutte da un'inondazione che colpì la sua casa Venezia, immagino. Thank you. sarà la sua, la prima stella, non so se sarà poi la prima, non ho ancora gli orari, ma insomma abbiamo deciso questo ordine, insomma, di passaggio dei pezzi degli artisti che parteciperanno ad Astro Festival. E passiamo ad un giovane DJ producer inglese di Colchester, adesso di base a Londra. Si tratta di Felix Carly Weatherall, nome d'arte Ross from Friends, proprio Ross Geller del telefilm Friends, non penso che ci siano altre interpretazioni. E nel 2016 si è fatto notare con un EP dal titolo You'll Understand e ci sentiamo Talk to Me, You'll Understand. Ross from Friends, autore di una house molto melodica, anche un po' malinconica, niente di super euforico, anche spesso tinta di hip hop, e questo è stato appunto il primo pezzo che lo ha fatto conoscere. Abbiamo fatto un edit perché era piuttosto lungo. E il ritmo aumenta, siamo passati ad un nome attesissimo, soprattutto per il fatto che dopo un album omonimo all'inizio di questo millennio stanno tornando, dopo appunto 15-18 anni, non si capisce bene quale sia la cronologia, ma sono gli Am tedeschi, ma Am come anima in francese, duo composto da Frank Wiedemann e Christian Beyer. Si sono conosciuti nel 2002, poi hanno avuto il loro primo debutto nel 2002 per la Sonar Collective, berlinesi, credo, o comunque prima o poi ci sono arrivati a Berlino, ma la Sonar Collective sicuramente era di Berlino. E poi nel 2005 se ne escono zitti e zitti con un EP, un pezzo fondamentalmente su remix dal titolo Rey, R-E-J, che ha sbancato. E infatti alla versione originale del pezzo abbiamo mischiato il remix dei Pasta Boys contenuto appunto nel Ray EP. Remix dei Pasta Boys, un po' più pieno nel suono, un po' questo riff, questa linea melodica ripetuta appunto alla struttura del pezzo con delle tastiere un po' più, non lo so, latine oserei dire. E ricordiamo che dei sei artisti singoli o in coppia, che poi ce n'è solo uno in coppia, in realtà no, ma lo diremo tra poco, sono tutti live tranne un DJ set, quindi Gigi Masin live, Ross from Friends live, Am live, e poi soprattutto insomma quello che per me è un po' il disco del cuore di questo inizio anno e quindi per me insomma attesissima esibizione di George Fitzgerald. Abbiamo dedicato una puntatona delle nostre, la nostra monografia a marzo, l'album, l'ultimo, All That Must Be, è uscito il 9 marzo, non c'è molto da dire se non rimandarvi all'ascolto, se volete, della puntata di Mighty FM dedicata a lui, e nell'ambito di quella puntata avevamo ascoltato tanti pezzi dell'album precedente del 2015, Fade in Love, perché è stato insomma l'incubatore poi del suono che ha mastered, che ha raffinato George Fitzgerald, e c'era un altro pezzo che a me piaceva molto, forse quello un po' più cattivello invece che della sua elettronica emotiva, emozionale, è un pezzo che abbiamo già ascoltato in un'altra occasione qui a Mighty FM, ma non importa, si tratta di Shards, featuring sempre il vocalist presente in diversi pezzi di quel disco, Lawrence Hart, George Fitzgerald. E siccome George Fitzgerald ha acquistato anche pubblico grazie ad un suo remix di Open Eye Signal di John Hopkins, nell'ambito della trasmissione appunto dedicata a lui abbiamo ascoltato quello che allora era proprio una primizia, ovvero Emerald Rush, il primo video singolo tratto dall'album allora di prossima uscita, adesso nel frattempo già uscito il 4 maggio, si tratta di Singularity, John Hopkins, e adesso appunto ci ascoltiamo la title track che è anche il pezzo di apertura dell'album, grande ritorno di John Hopkins. E lui sì, beh, nella nostra presentazione l'abbiamo definito un talento siderale, e i suoi pezzi, come anche quelli di Max Cooper, sembrano proprio fatti apposta per musicare, non so, dei video astronomici o simulazione del Big Bang, supernove che esplodono, corpi che si muovono appunto nello spazio siderale. In questo Singularity c'è uno dei suoi classici crescendo per questo musicista che abbiamo ascoltato tante volte qui in trasmissione, Jonathan Julian John Hopkins, nato il Ferragosto del 1979, che insomma si è fatto la gavetta con Brian Eno, con i Coldplay, quando ancora facevano delle robe decenti, credo, senza dimenticare il bellissimo album Diamond Mine con King Creosote, dove che contiene una delle canzoni più belle della mia vita, credo, Bats in the Attic. E poi l'uscita di Immunity nel 2013. E dopo 5 anni, e nel frattempo in questi 5 anni l'abbiamo visto dal vivo, live set o DJ set almeno 3-4 volte, è tornato con questo album che mi ha fatto pensare, mi ha fatto ricordare che la singolarità è una teoria, a parte essere un concetto matematico e geometrico, magari l'accezione in cui l'ha pensata John Hopkins è appunto la teoria della singolarità relativa all'intelligenza artificiale. Cioè ci sono appunto alcuni esperti di IA che profetizzano che il futuro dell'umanità sarà la singolarità, cioè l'integrazione della psiche umana nei computer. E ne vediamo delle anticipazioni, Westworld, ma anche Humans. Le serie TV vanno sempre un po', no? In avanscoperta. Ma i neuroscienziati sottolineano tutte le lacune di questa previsione, dato che nessuno sa bene in che modo la mente possa scaturire dal cervello. Il codice neurale, grazie a cui gli impulsi nervosi vengono interpretati come percezioni, ricordi, significati e intenzioni, sfugge a qualsiasi tentativo di comprensione. E quindi ci sono molte interpretazioni dello scetticismo, ma la maggior parte delle versioni che ipotizzano la singolarità presuppone che si acceleri sulla strada del cervello bionico, nella produzione di cyborg, chip cerebrali. Black Mirror anche ci ha parlato di cose simili. E quindi mi sono fatta questo viaggio qua. Magari glielo chiedo a John se la Singularity faceva riferimento a questo. Poi finisce appunto con questa saturazione che finisce in distorsione, assolutamente appunto voluta, come fosse appunto un'esplosione o un'implosione, chissà. E arriviamo al Bad Boy, anche lui un singolo con un nome plurale, o forse no, perché Boys Noise, il rumore dei ragaz praticamente. Boys Noise, lui berlinese, è iniziato a 15 anni a darsi al DJing. Questo Questo è un pezzo da una sua ultima pubblicazione, molto recente, 16 marzo. Si tratta di Strictly Raw, Volume 2, una collezione di 8 tracce per un 34 minuti. Lui dice appunto sia stato ispirato ai suoi DJ set in questi anni. E il pezzo che ascoltiamo è S&H Disco Boys Noise. Strictly Raw Volume 2, lui dice, ispirato ai miei recenti DJ set, queste 8 tracce vanno dalla techno all'industria, all'IBM, a insomma emozioni, vibes, sensazioni hardcore, registrato 100% analogico e strettamente in live dal vivo, live jam, raw, live jam, crude, nude e crude. Abbiamo finito il primo giro, abbiamo ascoltato un pezzo a testa dei 6 artisti di Astro Festival. Ricordiamo sabato 30 giugno Astro Festival, terza edizione presso il Circolo Magnolia, presso l'Idroscalo di Milano. Io consiglierei così a bassa voce di dotarsi di Autan. E abbiamo finito il primo giro e quindi ritorniamo all'inizio, ritorniamo da Gigi Masin, ma in un suo progetto parallelo. A parte che dopo il 1986 di Wind è uscita solo un'altra edizione, Wind Collector, appunto perché appunto le copie del disco sono andate distrutte, del 91, quindi immagino l'inizio dell'era d'oro, più o meno, del CD. Poi una raccolta nel 2014 e poi appunto un altro progetto con altri 2 musicisti, e mi ha stupito vedere il terzo nome. Si tratta di un trio, sono i Gaussian Curve, quindi siamo sempre nella fisica, nelle scienze, insieme a Johnny Nash e Young Marco, DJ olandese molto carino e simpatico che ho avuto modo di conoscere a Roma. fatto due pubblicazioni, una Clouds nel 2015 e un'altra The Distance nel 2017, da cui ci ascoltiamo un pezzo dal titolo T.O.R. Curva gaussiana, non fisica, bensì matematica. Infatti io avevo 3. Carl Friedrich Gauss, gli integrali, mio Dio, no, gli integrali li sapevo fare alla fine, mi divertivano anche. Quindi dopo la teoria della singolarità, sì, la musica elettronica si associa sempre alle scienze e diverse volte abbiamo citato la laurea, la specialità, specializzazione di Max Cooper in biologia computazionale. E chissà perché appunto Gigi Masin, Johnny Nash e Young Marco hanno scelto questo nome per la loro musica molto ambient minimale. Quindi alla terza edizione di Astro Festival, Gigi Masin, Ross from France, Boys Noise, Am, John Hopkins, George Fitzgerald, più altri nomi ancora da annunciare per finire, per completare questa giornata appunto dalle luci del crepuscolo, quando si spera in un cielo sereno le stelle appariranno nel firmamento, alcune stelle brilleranno di più. Ovviamente questa è una metafora molto molto facile, ma insomma anche alla base del concetto di questo festival, in una giornata molto intensa a partire da quella che fu la prima edizione, 16 giugno 2016 a Ferrara sotto le stelle. Quindi c'era anche questa connessione dove noi c'eravamo, e nella Piazza Castello e nel cortile interno al Castello Estense si esibirono Caribou, Fortet, Floating Points, Junior Boys, e per l'Italia in rappresentanza Jolly Mare e Populus. Quindi siamo tornati a Ross from France, che ha questa particolarità, e chissà se ce la porterà anche a Milano, poi di esibirsi dal vivo con l'aiuto di altri musicisti e quindi per suonare veramente con gli strumenti i suoi pezzi e tutte e tre insomma si passano chitarre, tastiere, sassofoni e chiaramente le macchine. Una carriera proprio in rapida ascesa quella di Ross from Friends, perché il pezzo che abbiamo sentito prima lui l'aveva pubblicato nel 2015 su SoundCloud, poi dopo che ha ottenuto attenzione l'anno dopo ha pubblicato un EP e poi nel 2016 l'EP da cui appunto abbiamo sentito il pezzo, il primo pezzo, poi nel 2017 altri due EP passando di etichetta in etichetta, come spesso succede, ma anche contemporaneamente, non come succede di solito alle band che inizi con un'etichetta dopo firmi per un'altra. Di solito appunto i producer, i DJ della scena elettronica fanno delle release abbastanza a volte a raffica per diverse etichette che poi insomma fanno tutti parte della stessa comunità e spesso sono amici. Ma dopo che il secondo EP del 2017 era uscito per la Magic Wire di Lone, altro DJ producer che conosciamo e apprezziamo, Ross from Friends è entrato nella prestigiosa etichetta Brain Feeder di Flying Lotus quest'anno e subito ad aprile è uscito un EP dal titolo Aphelion, da cui ci stiamo ascoltando il primo pezzo che si chiama Non svegliare papà, Don't Wake Dad. è finito Ross from Friends con Non svegliare papà, e poi questo suono di uccellini fa pensare che, vabbè, è giovane, 24 anni, può tranquillamente avere un figlio, e magari lui torna dai suoi 17 di notte, va a dormire all'alba. I bambini, si sa, più sono piccoli più si svegliano presto, e lui va a dormire all'alba e dice: non svegliare papà che ha lavorato tutta la notte facendo il DJ. E siamo tornati a Yam, Frank Wiedemann e Christian Beyer. Qualcuno avrà già indovinato, riconosciuto questo pezzo. Io ho detto i Remida dei remix, ma non solo, perché vabbè, dopo il loro incontro hanno pubblicato una quindicina di EP e di singoli, appunto, per svariate etichette, oltre ad aver fondato la propria etichetta, la Inner Visions. E dei singoli, degli EP, spesso con altri colleghi come Eric Schwartz, Dixon, Buka Shade, anche le altre etichette hanno pubblicato anche per Host Good Tone, per Rush Hour, e anche poi facendo dei classici white label, appunto, senza nessuna etichetta. E credo che uno dei loro più grandi successi per interposta persona sia questo remix che stiamo ascoltando di un pezzo già molto bello di suo, ma poi anche praticamente degli Am, perché a firma di uno dei due Am, ovvero Frank Wiedemann, con la voce di Ry Cummings, Ry X, anche lui ha diversi nomi, era il 2012 e questa era molto bella e sempre valida, Howling. Hot night coming, keep the car running. And fingers swallow my pollen. Dicono di loro, Sono gli artefici di un linguaggio sonoro in grado di far breccia tra i clubbers di tutto il mondo, gettando un ponte tra le tradizioni musicali di Detroit, Chicago, New York, Berlino e Parigi. Conquistano trasversalmente le scene internazionali, muovendosi con rara disinvoltura tra la creme della deep house, gli agitatori dell'ondata minimale, un po' un ossimoro, e i protagonisti del broken beat. I loro set viaggiano tra armoniosa techno intrigante di pause, offrendo un differente scenario sonoro generato da una medesima intensa carica emotiva. Ma il disco, che appunto non si capisce se il primo era una raccolta, perché loro dicono dopo 18 anni facciamo un disco, non si capisce se è proprio considerato il debutto come LP oppure no, si preannuncia veramente molto interessante e diverso magari da chi li ha conosciuti attraverso il dance floor, ma ne parleremo ascoltando l'ultimo pezzo dedicato a Yam, perché adesso siamo ritornati a George Fitzgerald. Come dicevo, abbiamo dedicato una monografia abbastanza corposa, tutta incentrata sull'ultima pubblicazione, il bellissimo All That Must Be, che abbiamo ascoltato tutto, ma per forza di cose ho scelto altri sempre due pezzi dal disco che quindi abbiamo ascoltato poco tempo fa, ma non importa, e è proprio il pezzo di apertura che si apre con dei rumori di fondo di traffico, forse appunto del suo studio londinese. Abbiamo detto molto di come questo disco rappresenti un cambiamento esistenziale. Lui, che ormai era da una decina d'anni a Berlino e quindi aveva la sua vita anche molto indipendente, è diventato papà. E dopo che si è stancato di fare un po' il pendolare con Londra, dove stava la bambina, ha deciso di ritornare a Londra, appunto, e prendersi, insomma, la responsabilità, parole sue, appunto, di un altro essere umano. Dicevamo, il pezzo di apertura dell'album All That Must Be è Two Moons Under. Siamo sempre in tema astronomico, cosmico, E quando abbiamo fatto la trasmissione su George Fitzgerald, avevo visto sul suo sito le date del suo tour, ma questa data non c'era ancora, quindi sono stata molto felice. Tra l'altro mi ero dimenticata di dire che sarà al Sonar, vabbè, c'è tutto il mondo al Sonar, quindi amici e parenti che so che ci andate, mi sono raccomandata già di non perdere George Fitzgerald, ma insomma il festival sono sempre pericolosi per le sovrapposizioni. Ho avuto già una prova oggi, che ho visto che sono usciti i palchi e gli orari del NOS Primavera Sound di Porto, che già tra 2-3 settimane saremo lì. E comunque, insomma, era per dire che sono tanto contenta che George Fitzgerald sia a Milano, è quello che io attendo di più. E avevo detto come lui ormai faccia parte un po' di questa crema della scena elettronica inglese, in cui chiaramente uno dei capofila è John Hopkins, e siamo tornati a sentire un altro pezzo di Singularity, l'album che è uscito il 4 maggio 2018. E questo pezzo, credo super super editato. Ah no, era un altro che è di 11 minuti, ma anche questo sicuramente abbiamo tagliuzzato qua e là. Si tratta di Neon Pattern Drum. E questo non è un problema di audio, sebbene, diciamo, la signature, il suono che ha creato John Hopkins e che usa sempre, a volte potrebbe anche usarlo un po' meno, però vabbè. I pezzi di John Hopkins sono sempre un bel viaggio. Ci eravamo abituati bene con Immunity, un album che abbiamo ascoltato anche qui in trasmissione in lungo e in largo, di cui poi è stata fatta un'altra versione. Le cosiddette Asleep Versions, e poi alcuni pezzi, poi anche con la presenza, un pezzo Breathe This Air con la presenza della voce dei Purity Ring, che fine hanno fatto, tra l'altro. E lui incide per la Domino Records, appunto non è che non è un'etichetta famosa per la musica elettronica quanto appunto per l'indie, per il rock alternativo, etichetta che si è anche accaparrata George Fitzgerald per questa ultima uscita, quindi adesso sono anche compagni di etichetta, chissà se sono anche amiconi nella vita. Ma dopo John Hopkins ritorniamo a Boys Noize, ovvero a Alexander Rida, 1982, anche fondatore della sua etichetta Boys Noize Records, e ascoltiamo un altro pezzo tratto da questa ultimissima collezione ovvero Strictly Raw Volume 2. Questo pezzo si chiama Digitvl e che mi ricorda un po' dei pezzi, spesso ha fatto pezzi di questo tipo Elena Hauff, questo recupero un po' dell'electro primi anni 80 del breakbeat. E da quello che ho capito si può dire con abbastanza certezza che sarà lui a farci ballare fino alle luci dell'alba per l'Astro Festival. Lui che ha iniziato la sua carriera con un altro pseudonimo, Kid Alex, e si esibiva in supporto a Felix Dauskat, DJL, insomma è venuto fuori all'inizio degli anni 2000, quando appunto c'è stato l'esplosione dell'Electro Clash, lui appunto che ha un atteggiamento techno-punk, e quindi anche il periodo d'oro di quegli anni, di quelli che proprio facevano, e alcuni lo fanno ancora, casino. Ecco, ero rimasta impiccata perché dicevo come ero sicura che mi stesse venendo il nome, invece no, ho avuto un vuoto di memoria. Steve Aoki per esempio, quindi anche Bloody Beetroots, e anche comunque i remix di quegli anni dei Soulworks, molto molto saturi e rumorosi, Justice. tra l'altro ha remixato tantissimi grossi nomi come Depeche Mode, Daft Punk, David Lynch, Feist, Nine Inch Nails, ha collaborato con Snoop Dogg, Errol Alkan, Jarvis Cocker addirittura. E ha pubblicato anche progetti di Chilly Gonzalez, di Skrillex, di Mr. Wazoo. Primo album debutto nel 2007, si chiamava Oi Oi Oi, poi Power nel 2009, e noi comunque l'abbiamo conosciuto proprio quasi all'inizio con l'EP, con due pezzoni incredibili, The Bomb e Boy Neu. Poi Out of the Black, dove c'è il mio pezzo preferito, Ich Are You, con un video veramente spettacolare. Poi nel 2016 Mayday, anche questo molto bello, sebbene mi fosse passato inosservato. Ma adesso ritorniamo invece alla minimal ambient per due pezzi mixati insieme. Sono due pezzi al pianoforte tendenzialmente, perché Gigi Masin nel 2018 finalmente ha fatto anche un'altra sua opera, un EP dal titolo Kite, Aquilone. Qui appunto ci ascoltiamo la title track, a cui abbiamo unito un altro pezzo di questo EP di un minuto e mezzo che si chiama Aphrodite's Eyes. Il sito Resident Advisor lo definisce musicista New Age, parlando dell'uscita di Kite. Anche questa è una pubblicazione autoprodotta, e nella pagina su Bandcamp di Gigi Masin c'è una breve nota che dice: recentemente ho pensato a cosa significa un cambiamento. Se si tratta di girare l'angolo o se significhi camminare, continuare a camminare dritto lungo la strada. O una nave che adatta la sua rotta ai venti, alle onde, oppure se sia un aquilone che danza nell'aria ad un passo dalle nuvole. Thank you. Questa appunto la preannunciata e mal pronunciata Aphrodite's Eyes, come Nike, questi nomi greci. Finisce così lo spazio dedicato a Gigi Masin per questo special dedicato all'Astro Festival, terza edizione 2018. Avevamo detto della prima nel 2016 a Ferrara, poi dall'anno scorso sempre il Magnolia Estate con nomi come Moderat, Dixon, Gold Panda, Clap Clap con Band, Daniele Baldelli, Lori D, lui veterano, Duqua e Abstract. Siamo ritornati a Ross from France. Sempre un altro pezzo tratto da La Felion EP, si chiama March, e neanche farlo apposta, cos'è La Felio? Tutti lo sappiamo, in realtà è meno famoso del perielio, però in astronomia, guarda caso, La Felio è il punto di distanza maggiore della Terra dal Sole, cioè nella sua orbita che è ellittica e non è perfettamente circolare, a volte la Terra si trova al perielio, quindi il Sole scotta un po' di più, e a volte si trova all'afelio. E ovviamente questo è una caratteristica che riguarda qualsiasi corpo del sistema solare, quindi anche ci sarà il perielio della Luna rispetto alla Terra, eccetera eccetera. In effetti a me geografia astronomica mi è sempre piaciuto un casino. Ross from France. Io ho ipotizzato forse l'unica interpretazione, cioè Ross di Friends, come Chandler di Friends o Joey di Friends. Tra l'altro il personaggio che mi sta più sulle palle, diciamolo. We'll be right back. tra l'altro vedo che sul suo Bandcamp questo EP Aphelion risulta sold out, sono 4 pezzi. E riguardo al passaggio alla Brain Feeder di Flying Lotus, lui dice: è stata veramente un'emozione enorme firmare per la Brain Feeder, perché ha sempre spinto, insomma, verso un suono avanti, coraggioso, avventuroso, uno che accattura costantemente la mia attenzione con ogni cosa che pubblicano. E quindi ho messo insieme questi 4 pezzi pensando proprio alla Brain Feeder. Volevo esplorare la musica che ho fatto nei 7 anni passati come Ross from Friends, e allo stesso tempo cercando di esplorare il suono esplosivo per cui questa etichetta è meglio conosciuta. Tra l'altro, appunto, per dire anche questo desiderio di sperimentazione, pur mantenendo comunque il divertimento, c'è anche un pezzo che si chiama John Cage. Per partecipare all'Astro Festival cosa si fa? Basta comprare il biglietto. Nell'evento, nella pagina, ci sono tutti gli indirizzi, ovviamente, per le prevendite: Ticket One, Mail Ticket, Fest Ticket, per una cifra di 35 euro, che magari uno se li sputtana in un sabato sera normale, non facendo niente, andando a bere della birra per strada. Voi potete stare lì, noi possiamo stare lì, ascoltare questi 6 artisti che già sono dei nomi stratosferici e che quindi già giustifica la spesa e la trasferta nel caso vi dobbiate spostare come me, che tra l'altro lo farò 2 volte in 4 giorni nello stesso posto, perché il 27 giugno ci sarà St. Vincent, sempre al Magnolia. Insomma, giustificata la spesa e la trasferta, poi anche in prospettiva di altri nomi che verranno annunciati. Siamo arrivati all'ultimo pezzo dedicato ad Am, come dicevo, l'uscita di questo disco 1 giugno, Dream House, che forse sarà diverso da quello che la gente si può aspettare, avendo riconosciuti attraverso il dance floor, e già si sente la differenza da questo pezzo, che è il primo che è stato diffuso con un video. Si tratta di The Line featuring Matthew Herbert, ma non sono gli unici featuring, che è anche un po' una caratteristica degli album di elettronica, perché oltre a Matthew Herbert, per esempio, c'è Gudrun Gut, storica fondatrice, capa dell'etichetta Monica Enterprise. Ma per esempio, una cosa che mi incuriosisce tantissimo, c'è anche Planet to Rock, ma questa è The Line. Amo. Was real. the Line featuring Matthew Herbert, sembra quasi un canto rituale degli indiani d'America. E se non l'ho detto chiaramente, l'ho sottinteso, di questi sei artisti, queste esibizioni, sei esibizioni, cinque saranno dei live set, quindi anche quello degli AM, che penso che saranno carichi nel presentare al pubblico questo nuovo album Dream House, e chissà se saranno solo loro con le macchine o come nel caso di Ross from Friends, che non so, immagino, visto che sia questa la sua caratteristica, che poi dal vivo ha degli altri musicisti e la sua house è suonata, chitarre, tastiere, sassofono eccetera, e anche nel caso, già lo dico perché poi è il prossimo pezzo che arriva, ho visto un pezzo di Burns sempre tratto da All That Must Be di George Fitzgerald, e ho visto che insieme a lui, e ne ho avuto conferma, ci sarà anche un batterista e un tastierista, e lui invece alle macchine, quindi bellissima anche sorpresa sapere che George Fitzgerald sarà in trio sul palco. Qui gli uccellini, sì, alla fine era proprio quasi un mantra. E come secondo pezzo tratto dal Must Be, non potevo esimermi da scegliere quello più strappacore. Ascoltato veramente adesso, era un bel po' che non l'ascoltavo, insomma, dopo aver fatto la trasmissione l'ho ascoltato di meno, ma è sempre una grandissima emozione. È Roll Back featuring Lil Silva, anche lui musicista londinese poco conosciuto. Is it cold when you're dreaming? Is it cold when you're under? I wanna roll back to yesterday. Is it cold when you're dreaming? Is it cold when you're under? I wanna roll back to yesterday. E beh, poi se non meritava un secondo passaggio rollback, perché quando faccio le trasmissioni cerco di parlare del contenuto, del mood, del testo, eccetera, eccetera, mi ricordo di averci parlato sopra abbastanza, ma poi comunque l'idea è sempre: io parlo, do delle informazioni che probabilmente hanno valore solo per me, e poi voi, se vi è piaciuto, ve lo ascoltate con calma, come per esempio potrete ascoltarvi con calma nei suoi maestosi 11 minuti e 51 secondi questa Luminous Being di John Hopkins, sempre tratta da Singularity, uscito il 4 maggio, che appunto questa live set ci presenterà, e che abbiamo ridotto, insomma abbiamo tagliato più o meno 5 minuti e mezzo, dai, però sempre oltre 6 minuti, penso che un'idea ce la possiamo fare di Luminous Being. Adesso sono andata a dare un'occhiata alla nostra fonte di critiche e giudizi, Metacritic, dove Singularity di John Hopkins ha ottenuto un 84 di Metascore a fronte di dei 10 di The Musical Express, di AV Club, di The Skinny. E di un 8.3 di Pitchfork. Mi sorprende vedere, vabbè, magari appunto non sarà una innovazione totale, ci sono appunto i suoi suoni, quelli che ha creato e che continua a proporre, magari sono dei pezzi che non sono tanto entusiasmanti come Emerald Rush, magari me l'aspettavo insomma come primo singolo che fosse un po' più diverso da quello che ha fatto in passato, ma è bravissimo in quello che fa, ma appunto non mi aspettavo di vedere che The Guardian, cioè quindi il quotidiano il più importante, insomma alternativo al Times, diciamo, inglese, londinese, ha dato un bel 4 a questo disco, non so perché. Uno si può leggere tutta la recensione, ma il sito ti dà come anteprima una frase appunto emblematica del contenuto della recensione, e The Guardian dice: troppa parte di quest'album è di quel tipo di roba a cui la gente praticamente si attacca per far sentire che il down della droga, cioè, è meaningful, cioè abbia un significato, cioè far sentire significativo il down della droga, e quindi insomma come se fosse, non so, un po' cheap. Ma finisce questa versione super editata di Luminous Beings di John Hopkins, e passiamo al bad boy della musica elettronica, al incasellabile nomade tecnopunk Boys Noize, che si è esibito ovviamente tutto il mondo 3 volte a Coachella, a Lollapalooza, ma anche allo Clare Festival di Justin Vernon, Bon Iver. E dicono di lui, cioè Too Many DJs, cioè Soulworks, dicono di lui: Boys Noize è l'unico DJ che può suonare techno underground davanti ad un pubblico di 30.000 persone. E per finire veramente in bellezza, cioè con un ritmo più sostenuto, un pezzo un po' più arrabbiato, appunto tecnopunk nel suo stile, ho deciso di chiudere questa trasmissione con un pezzo tratto da Mayday, l'album del 2016, si tratta di Los Niños. E finisce così questa puntata di Might FM dedicata ad Astro Festival. Colgo l'occasione per ringraziare Anna Chiara Pipino di DNA Concerti, DNA Dance Department, che sono appunto i promoters di questo bellissimo evento. E vi saluto con le ultime note di Boys Noise. Ciao da Claudia Mighty Mau, alla prossima!